Melog, la realtà condivisa, di Gianluca Nicoletti. Sansonna, sì. Mutismo e rassegnazione. Per me è finita, per te c'è una vita. Devi morire, lo sai? Stai facendo il nonno? Sì, sto facendo il nonno. Nessuno capirà o pochi capiranno il senso del mio incipit. Queste erano le frasi tipiche che scandivano il tempo che passava, l'anno di Naia. Voi direte, ma ancora che cosa arcaica, che cosa antica, che cosa brutta, reazionare, cattiva, pensare al servizio militare. Beh, io ancora ogni tanto ci ripenso. In quell'anno che passai al carro avanzato, prima Savona, una città terrificante, c'erano soltanto soldati. Adesso non c'è più la caserma, c'erano soltanto soldati. L'uscita, la libera uscita era le orde di sfigati che si allargavano per le strade di Savona battendo la stecca. Non sono più capace, si batto le dita, si fa questo rumore, sarebbe la stecca, vuol dire il tempo che passa per i nonni e per le reclute, in realtà sarà un tempo lunghissimo. Si girava per Savona come assatanati, c'era il coprifuoco, ogni femmina di specie umana o animale in età di respiro e vita veniva a sua mente tolta, quindi da 9 a 90 anni non si vedeva una donna in giro. Questi lupi che per la Savona, pensate, una città tristissima, la città di Fabio Fazio, una cosa nebbiosa, capito? Si andava a mangiare la focaccina con i ceci e poi si andava a vedere i film zozzi nei cinemini e si vedono 3-4 volte, 5 volte, 6 volte. Poi mandarono a San Giorgio a Cremano, scuola specializzata in trasmissioni, dove dovevo fare radiotelegrafista, c'era forse una predestinazione, ma in realtà c'era stato il terremoto da quelle parti. A Napoli ci mandarono a scavare i container per i terremotati che ci tiravano le sassate, mi ricordo. Questi ragazzini napoletani dentro il container con le televisioni e tutte le tecnologie più avanzate, e noi poveri soldati con la carriola che portavamo masserizie, loro si divertivano a tirarci i sassi, non potevamo fare niente. E poi alla fine l'apoteosi, tramite non so quale arcivescovo finto, fu trasferito ai Lancieri di Montebello a Roma, che era una bella caserma. Lui stette in fureria tranquillo, gli ultimi mesi li passai nella più bella caserma di Roma. Bello che ero furiere, quindi, perché ero l'unico laureato, quindi sapevo leggere e scrivere, facevo gli ordini di entrata e di uscita dei soldati e avevo il grande compito di sequestrare i giornalini zozzi nelle camerate, me li portavo tutti nell'armadietto e dormivo in fureria, perché sennò come furiere, quindi infame, mi tiravano secchiate di orrende cose la notte. Non subii nessuna tortura, mi fecero una volta il latte condensato, che ti spalmano il latte condensato sul cuscino, mi sembra un lucido, ebbi lucido da scarpe sempre sul cuscino, ma tipo armadietto, cioè il jukebox, queste cose qua non mi fecero nulla, fui fortunato. Beh, oggi parleremo di Naia, parliamo di questa cosa che sembra un ricordo di tempi arcaici, ma so che all'interno del nostro pubblico ci sono persone che ancora ricordano e rimpiangono quel periodo felice. Voi direte che c'entra, c'entra, perché quando si faceva la Naia si imparavano molte cose della vita, si imparavano velocemente, si apprendevano in tempi rapidissimi. Era un anno solamente buttato via, non serviva a nulla, soprattutto chi lo faceva già avendo terminato gli studi universitari o in procinto di terminarli. Ti trovavi lì insieme a persone che mai nella vita pensavi di incontrare, persone che nemmeno parlavano italiano. C'erano ancora gli analfabeti, anni 80, c'erano ancora analfabeti, facevano il corso gratis per analfabeti. Ci andavano perché c'era la maestra, 70 anni, ma era l'unica donna, pensa te, in un ambiente di migliaia di uomini. Questi andavano al corso per imparare a leggere e scrivere e uscivano fuori, hai visto quella? Oh, me la metterei così, era bellissimo. Un momento, devo dire, scusate, mi sono lasciato andare in questa mattina nebbiosa dai ricordi nostalgici, ma oggi con Giuseppe Sansonna, attraverso il cinema italiano, ricorderemo i tempi in cui gli italiani andavano a fare il soldato. 800240024. La tua posizione è gravissima, la denuncia obbligatoria. Il tuo delitto si chiama incitamento all'insubordinazione, reato che prevede un minimo di 8 anni di carcere militare. Sì, signor capitano, le giuro, guardi che sta zitto, e senza contare tutto il resto. Il 158 qui parla molto chiaro. Detenzione fino a 5 anni per chi tenta di sottrarsi con simulazione al servizio di leva. Ti ho fatto male? Eh? Ti ho fatto male? Su! Su! Su, reagisci! Reagisci! No, no, no! Riprenditi, non fare il vigliacco! Su, vieni qua! Vieni qua! Guarda che appena cominciato. In questo momento non sono il tuo comandante. Siamo alla pari. Nessuno ci vede e ci sente. Sei d'accordo? Sei normale. Hai una muscolatura normale. I tuoi pugni fanno male, eh? Ma se non sai usare, come fai? Eh? Hai sempre paura, è vero? Sei d'accordo? Eh? E colpisci! 80024, 0024, il rapporto difficilissimo del ragazzo di media buona famiglia con la gerarchia militare. Gerarchia militare, poi l'Italia ha attraversato più della naglia in un periodo in cui non si parlava di guerra, se ne parlava poco. Gli ultimi scaglioni hanno cominciato a avere il sapore delle campagne cosiddette di pace, ma per lunghi decenni fare il militare significava spazzare per terra, pulire i gabinetti, fare la guardia delle caserme vuote e soprattutto passare lunghi mesi in cui ti insegnavano cose indispensabili nella vita, fare il cubo. Fare il cubo, sai che significa? Sì. Come si fa il cubo? Si fa un quadrato, cioè si rifà il letto facendo un quadrato delle lenzuola. Beh, non è così semplice. Le lenzuola devono sporgere di 1,5 cm dalla coperta, deve essere piegata in maniera assolutamente tesa. Per cui il caporale giornata, quando passa, ci buttava 100 lire sopra. Se le 100 lire non ribalzavano, ti prendeva, ti rovinava tutto il cubo, te lo buttava per terra, tu non potevi uscire. Quindi si passano mesi ad apprendere l'arte difficilissima di fare il cubo. Fare il cubo significava piegare il materasso in modo che la recluta, nei momenti liberi, non si potesse stendere sul letto e dormire. Ci si sedeva lo stesso sulla rete, ci si appoggiava al cubo, però è una cosa già in sé molto pericolosa. Massimo, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Volevo raccontare, posso? Prego, siamo qua. Dunque, per inciso, sono stato nella stessa caserma, la SCUST, la scuola trasmettitore. A San Giorgio a Cremano, ma esiste ancora? Esatto, sì, beh, però io sto parlando dell'83. L'83, io ero un paio di anni prima, 80-81. E quindi ho scoperto, non essendo rientrato dopo il periodo del pomeriggio libero, no? Bisognava rientrare. Certo. Mancato rientro. Mancato rientro, ho avuto 15 giorni di R, cioè 15 giorni in più di servizio militare. È giusto, mi sembra il minimo. Scoprendo, dopo aver fatto tutta la gavetta aspirante vice nonno, poi alla fine si è congedati. Le reclute in quella caserma si chiamavano pinguini, mi ricordo. Esatto, dopo aver fatto tutta questa mia gavetta, essere arrivato al grado di alla qualifica di congedante, poi l'ultimo giorno di naia sei civile, dopodiché se prendi l'aereo sei fantasma. Certo, cosa vuol dire? Non lo sapevo. Cosa vuol dire essere fantasma? Fantasma sono quelli che non appartengono più allo scaglione che ormai si è congedato e stanno lì, sono fantasmi, è vero? Sì, giustissimo. Ma puoi dormire fino a mezzogiorno. Il primo giorno che non sapevano che io fossi fantasma e il sottotenente venne a scuotermi dalla branda, gli altri dissero lascialo stare, quello è fantasma, e andò via. Quando andavo in mensa non facevo la fila perché ero fantasma, quindi c'erano degli indubbi vantaggi. Aspetta, non facevi la fila ma tenevi addirittura, eri completamente fuori ordinanza, potevi tenere, che ne so, il basco in testa, la divisa slacciata, le ciabatte invece di scarpe. Slacciata, esatto. Sì. Il fantasma faceva ciò che voleva, il fantasma era uno stato fantastico, ho invidiato tanto i fantasmi. Massimo. Sentiamo un attimo Sansonna, noi abbiamo mandato prima una clip che dà un'idea molto dura dell'impatto con la vita militare. In effetti era un impatto non facile. Oggi nessuno dei contemporanei fanciulli di buona famiglia ha un impatto simile. Era Marcia Trionfale di Bellocchio, in cui c'è Franco Nero con la sua espressione da husky siberiano che non ha fatto l'antirabbica, che fa questa sorta di ufficiale che impone invece a Michele Placido, che è un laureato in lettere febbrile, che prende anfetamine perché vuole congedarsi il prima possibile, ma gli impone una disciplina militare. E qui la caserma diventa metafora della società di fuori, ovvero queste coreografie estenuanti ed estenuate, inutili per una guerra che l'ha messa in scena, che forse avverrà o non avverrà, non si sa, ma comunque la logica del sopruso viene sintetizzata e condensata in questi spazi angusti, questa realtà condivisa, molto asfittica, verosimilmente inutile e violenta, che però diventa appunto metafora dei rapporti, dei giochi di forza che ci saranno fuori. Diciamo, era una scuola a gestire l'irrazionale, l'assurdo. Era totalmente assurdo tutto ciò che ti è ordinato. La vita stessa era assurda, la gerarchia era assurda, gli accanimenti di un ufficiale che passava mezza giornata con tutta la truppa schierata sul piazzale a spiegare come si dovessero lucidare gli scarponi o come bisognasse tenere la divisa. E pensavo che oggi penso che realmente pensa la vita di queste persone. Che avevano famiglia, figuriamoci, alcuni ufficiali superiori vivevano dentro la caserma. Quindi tu puoi immaginare la figlia del colonnello cosa fosse. Era una che veniva ingravidata con la mente migliaia di volte soltanto nel brevissimo tratto che faceva uscendo dall'alloggio del padre e dal cancello della caserma. Pensa, migliaia di persone concentravano tutto il loro pensiero spermatico represso nei confronti di quella povera ragazza occhialuta, poveretta, sempre con probabilmente mille problemi proprio per la famiglia in cui viveva. Camillo, buongiorno. Buongiorno. Io volevo soltanto dire delle cose. Oggigiorno non si fa più la naia, siamo d'accordo, però tutti quei ragazzi che affrontavano la naia come me, io ho 35 anni, l'ho affrontata un po' di anni fa. Uno degli ultimi sei stato, sei 35 anni, averla fatta. Perché... del 76, dopo 10 anni l'hanno tolta. Ah, infatti. Infatti. Però qualcuno è rimasto, ecco, io sono per la mattina mi faccio la barba perfettamente, è rimasto qualcosa che... è importante. Oggigiorno si vede tanti ragazzini che non hanno neanche rispetto del genitore, invece lì si obbligavano ad avere rispetto anche per la persona anziana, per il nonno. Ah, quindi diciamo il nonnismo era una scuola di vita? È diventata una scuola di vita, secondo me. Rispettare l'altra persona. Certo. Rispetta il nonno. Tu cosa facevi per essere rispettato quando eri nonno ai tuoi tempi? Io nulla, assolutamente nulla. Allora hai fatto nulla, hai fatto mai, non hai mai, non so, una recluta, si è fatto fare la branda da una recluta, pulire gli anfibi? No, assolutamente, io ero spaccista e sono diventato nonno dello spaccio dopo 3 mesi di caserma. Era una cosa. Quindi lo spaccista, fortunato, tu ti portavi a casa la cioccolata, le bottigliette con la grappa, queste cose qua? Sì. Certo. È normale. Prescrizione ormai è il minimo che si poteva fare. È il classico. Aveva una grossa moneta di scambio. Stiamo cominciando a capire come si entra lentamente in quello che è ormai l'insondabile sconosciuto mondo della naia. 800 24 0024. Quanto tempo è che sei arruolato? Ho capito la domanda. Quanto tempo è che sei arruolato? Ho capito la domanda. Allora 5 4 6 anni e mezzo, va bene? 6 anni e mezzo cosa? Come si chiama il nostro capo di stato maggiore? Dunque, il capo ce l'ho qui sulla punta dello spinello. No! Terrore! Coprire il vuoto! Così impari a suggerire, dimmi allora. Non lo so. Ah, è generale di corpo d'armata? Non lo so. E tu come ti chiami? Non lo so. E questo come si chiama? Non lo so. Allora, non sai proprio niente. No, perché? Cos'è successo? È successo che sei un caprone! Vai al tuo posto! Tieni giù i titoli, no, eh! No. Sturmtruppen era un fortunatissimo fumetto di Bonvi e poi divenne anche un film. Un film di Samperi in cui convergono tutta la sulfurea fantasia di quel gruppo meraviglioso che era il derby milanese. C'erano Pozzetto, poi c'era Toffolo, c'era Boldi ancora non bollito con una notevole forza comica. Qui sono agli ancora ordini, faceva ridere Boldi. Ancora faceva ridere. Qui sono agli ordini di Felice Andreasi che recupera appunto la parlata delle Sturmtruppen, quel pastiche italo-tedesco che creò Bonvi, generalmente, che compare all'interno del film. Ma la vera perla di questo film è Cochi in versione gerarca nazista con vestaglia di raso, con baldacchino, che prende a pugni il manichino di Karl Marx, in versione viscontiana, da Caduta degli Dei. Però se non ricordo male, quello era il personaggio di Siegfried von Nibelungen, che era il giovane biondo baciato dal sole che il primo giorno che va in battaglia mette il piede su una mina e rimane soltanto un tozzo praticamente umano, senza braccia, senza gambe, sì. E lo portano in giro, era il grande eroe appunto ferito. Sì, come, e Johnny prese il fucile, il film di Dalton Trumbo, che invece è un film tragico sulla guerra. Comunque insomma il clima è quello, il clima grottesco e surreale, ne coglie in pieno l'essenza della surrealtà, dell'inutilità della guerra e delle armi. Secondo me oggi alla società manca qualcosa, perché manca proprio questa immersione nella surrealtà, perché il servizio militare del ragazzo in famiglia iniziava naturalmente con tutte le consultazioni familiari, sentiano preti, amici, politici, dicendo, per cercare di evitarlo, tutti lo volevano evitare, tutti provarono a evitarlo, poi divenne facilissimo e c'era talmente tanta gente che lo evitava che non lo faceva più nessuno e quindi l'hanno abolito. Quindi si cominciava a dire, poi passate le raccomandazioni, si passava alla fase clinica, quindi simulare le malattie peggiori, morbi, affezioni, molti si simulavano strane turbe psichiatriche, altri naturalmente andavano vestiti da donna proprio per evitare il servizio militare, si faceva di tutto. E poi quando partiva iniziava lo sdilinquimento, le mamme che piangevano, i salami, i prosciutti, i cotechini che si portavano via, i calzerotte di lana e poi le fidanzate. Ecco, io vorrei chiedere alle ascoltatrici se hanno ricordi di uomini in tempo di naia, perché c'era uno struggimento, tutti i militari improvvisamente si accorgevano di essere innamorati della loro fidanzata e quindi la lontananza, lunghe ore davanti alle cabine, pianti, le fidanzate naturalmente cornificavano in quel periodo, che deve fare una povera ragazza un anno con un rompiscato e piagnone fuori, quando tornava a casa poi era una sorta di orso smandrillato che non pensava altro che a una cosa, che come canta Baglioni nella struggente Porta Portese, ti ricordai, che evoca proprio lui che torna dalla licenza per fare un regalo, farle una sorpresa, per comprare dei jeans nuovi, e poi la trova con un altro mentre sta vagando per Porta Portese. Sì, è il minimo, tutti struggente. Gli amori finivano così. Massimo, buongiorno. Io vorrei raccontare la mia esperienza. Io ho avuto, tra virgolette, la fortuna di fare appunto il servizio di leva nel 98, quindi l'ultimo anno prima che fosse tolta l'obbligatorietà del servizio militare presso la caserma dei Lancieri di Montebello. Ah, Lancieri di Montebello, bellissima caserma. Bellissima. Una delle più belle d'Italia. Eri uno svizzero, quindi. Si chiamavano svizzeri ai Lancieri, esatto, di Montebello. I lancieri di Montebello, lo svizzero però era la burba, era il militare appena arrivato nei confronti, sì, del nonno. Io questo ricordo bellissimo, è stato un anno in cui davvero finito il servizio si poteva uscire, girare per Roma, che per me è stata una scoperta, una città fantastica, e tra l'altro appunto io facevo parte di questa commissione on call contro il nonnismo, in sostanza una piccola commissione fatta di laureati, di neolaureati come me appunto, a disposizione per partecipare a trasmissioni televisive piuttosto che radiofoniche, cose di questo tipo, per appunto far vedere che in sostanza c'era questo impegno da parte dell'esercito per sconfiggere. Ma tu hai ricordi legati invece al nonnismo? In quella caserma, onestamente, era una caserma molto di rispetto e di riguardo, erano selezionati, che erano quelli alti e belli che facevano le guardie al Quirinale, quindi esatto, non avevano tempo da perdere per fare cose di nonnismo, quindi... Ma era una caserma piuttosto tranquilla. Io ricordo questo particolare invece, che sono stato trasferito per motivi personali, e gli ultimi 3 mesi li ho fatti alla caserma alla Santa Barbara di Milano, e sono arrivato che ero di uno scaglione più giovane dello scaglione più vecchio, quindi a quel punto mi trovavo ad essere in caserma praticamente come se fossi un ufficiale, nel senso che... Un quasi nonno. Sì, ero super nonno, nel senso che ero l'unico ad essere più vecchio di tutti gli altri, quindi effettivamente ancora nel 98 questa cosa era vista, c'era. Sembra impossibile probabilmente a chi ascolta, ma il semplice passare di un mese, quindi uno scaglione che si congedava e tu avanzavi di grado, quindi mettevi una stelletta di più dentro il basco, dentro il cappellino e via dicendo, era un cambio radicale della propria vita e della propria esistenza, cambiava proprio la qualità della vita. Uno poteva accedere ad alcune particolari privilegi, come ad esempio, non so, poter tenere la luce accesa la notte, poter tornare più tardi, via dicendo, che sembravano inimmaginabili. Giuseppe Sanzoni. Sì, il tempo aveva acquisito un senso profondo. Adesso li ascolteremo un pezzo sempre di Marcia Trionfale, appunto, in cui per esempio lì si vede che i nonni possono mangiare la carne immensa, si accaparano 4-5 bistecche. Possono scegliere, certo. Possono scegliere e agli altri non rimane nulla. Non fanno la fila e possono vessare. La metafora del potere sull'altro, la logica hegeliana del servo padrone, qui trova una sua condensazione rapida, molto forte, molto violenta. Insomma, Bellocchio è molto abile in questo. Attenì! Rizzo! Attenì! Nonni, va bene per voi? Benissimo. Va bene. Vai, fai il cucù. Elasticizzato. Un poco più aperte. Buonanotte, nonnini. Il congedo è vicino. No, più elastico, più elastico. Ripeti! Buonanotte, nonnini. Il congedo è vicino. Vicino per voi. Lontano per noi. Per voi è finita. Per noi c'è una vita. Nonni, sta bene per voi? Va bene, va benissimo. Va benissimo. Questa è la preghiera che ogni reclusa doveva dire la sera di fronte ai nonni. Buonanotte nonnino, il congedo è vicino, per te è finita, per me c'è una vita. Non so cosa servisse, c'era una sorta di vessazione criptomosessuale, di gestione personale delle povere reclute. Penso che sia tipico in tutti gli ambienti a forte componente maschile. Lì si esprimeva nella vessazione fisica e psicologica appunto dell'inferiore, che era quello che aveva semplicemente meno tempo di naia. Qui fanno salire la rospa, come la chiamano, cioè la recluta. Sì, la recluta, la rospa. Sì. Lo fanno salire su una sedia in mutande e lo costringono a una sorta di coreografia appunto forzata che diventa simbolo dell'allegoria del loro potere. Gli fanno baciare una stecca su cui hanno calzato un preservativo. Insomma, cioè, sì, come vedi, la stecca era un simbolo fallico. La stecca al mio scaglione era proprio un fallo di compensato con lo scaglione. La stecca che si passava di scaglione in scaglione era come un passaggio del testimone. Infatti, in questo film poi invece Franco Nero, che fa la parte dell'ufficiale, appunto, che vessa tutti, che toglie i fucili alle reclute per poi punirle, insomma, e che vesserà Placido, ha poi una vita privata, questa donna che lo tradisce, quindi ha una sorta di impotenza nella vita personale che sfoga un po' metaforicamente all'interno della caserma. Pare che appunto in questi film Fassbinder si innamorò di Franco Nero al punto di imbarazzarsi nel chiamarlo, e poi gli fece fare Seblon in Carel, appunto tornando al discorso, a quel tipo di clima che evocavi tu. 800240024, ricordi di naie, ma non soltanto di uomini. Vorrei sapere il punto di vista delle donne. Come vedevate il vostro fidanzato, il vostro rampollo, il vostro figliolo quando partiva per fare il soldato? Un soldato che non avrebbe mai fatto nessuna guerra se non quella, appunto, con i suoi coetanei, che erano i nonni. Sei proprio tu, John Wayne? E io chi sarei? Chi ha parlato? Chi cazzo ha parlato? Chi è quel lurido stronzo comunista Checca Pompinaro che ha firmato la sua condanna a morte? Ah, non è nessuno, eh? Sarà stata la fatina buona del cazzo. Vi ammazzo a forza di ginnastica, vi faccio venire i muscoli al buco del culo! Che ci potrete succhiare il latte senza cannuccia? Allora, sei stato per caso tu, brutta stronza? Signor no, signore! Brutto pezzo di merda con la faccia da verme, scommetto che sei stato tu! Signor no, signore! Signore, l'ho detto io, signore! Però, senti... Abbiamo tra noi un attore comico, il soldato Joker. Io ammiro la sincerità. Sì, tu mi piaci, vieni a casa e ti faccio scopare mia sorella. Brutto sacco di merda! Io ti metto sotto, ti farò un culo così! Qui tu non riderai, tu non piangerai, qui si riga diritto e basta, ti faccio vedere io! Alzati in piedi, tirati su! Datti subito una regolata, amico mio, se no io ti svito il cranio e ti cago in gola! Signor sì, certo, signore! Andato, Joker, perché sei qui nel mio benemato corpo! Poi naturalmente la scena clou di Palla di Lardo che si spara con il fucile d'ordinanza seduto nel gabinetto della caserma, e ogni sergente di Casoria sognava di essere questo cattivissimo istruttore di Full Metal Jacket. Però, sai, questi poi andavano in Vietnam a combattere davvero. In realtà i nostri soldati, perlomeno degli anni della naia, non devono fare nulla, devono passare un anno. 800240024 con Giuseppe Sansonna stiamo parlando della naia, rivista attraverso il cinema, che raccontava quella che era una realtà anche per tante famiglie italiane. Giuseppe Sansonna. Questo è il sergente Hartmann, qui siamo in piena metafisica, lo sguardo da entomologo che non ha nessuna compassione per l'umanità di Stanley Kubrick osserva la liturgia, il senso attoriale del sergente che entra nella parte di se stesso e quindi snocciola tutta una serie di metafore violente, cruente, dure da urlare in faccia alle reclute per assoggettarle anche mentalmente. Poi c'è la reazione di le sorelle erano molto nominate, devo dire, così. Sì, io ero fortunato, c'avevo solo fratelli, però la sorella era sempre madri, sorelle, un immaginario, ma le sorelle più che le madri, sai, la madre, effetti, cioè, in Italia soprattutto, cioè, ma non la toccava, la madre era intoccabile, però la sorella sì, la sorella c'entrava. E quindi una appunto umiliazione di tipo, di sapore macista in questo ambiente tutto appunto di maschi, dal forte afrore testosteronico in cui ci si insultava su questo piano, e tutto era in quella chiave, insomma, una metafora molto calzante che condensava diverse pulsioni. Virginio, buongiorno. Buongiorno a voi. Lei ha fatto militare a Cuneo, come Totò, proprio, perfetto. Cuneo, anni 70, cose incredibili. Ce ne racconti qualcuna, perché finora abbiamo avuto tutto l'acqua di rose. Se arrivava a Cuneo, una città di 50.000 abitanti allora, adesso non so quanti ne conti, forza militare, 3.400 persone su due caserme, una centrale e una alla periferia. Cioè, libera uscita era come le cavallette in un campo di grano. Cavallette, dice bene. C'era, era conosciuta. Poi voi uscivate in divisa ancora, non potevate uscire in borghese. ma scherza, in divisa ma doveva essere a puntino, scarpe lucide, scarpe, altrimenti la ronda ti brancava e ti buttava dentro ancora, ti buttava. Io ricordo appena arrivato a Cuneo stazione, una bellissima fontana ghiacciata, sembrava un monumento nazionale di ghiaccio, sembrava un monumento. Poi in caserma si è accorto che anche le docce avevano la stessa caratteristica. La stessa caratteristica. Poi si arrivava arrivato da recluta nel cortile della caserma, c'era il tradizionale bacio del fallo in legno, e chi non la baciava... Sì, c'era sempre questa sorta di iniziazione cripto-homosex, che era tipica, era qualcosa di non detto, ma oggi... Col senno del poi e con l'età matura mi rendevo conto che era una grande congrega in realtà monotematica su questo. C'era sempre questo fallo incombente che bisognava baciare, far di tutto, mi ricordo. Camerate da 20 persone, vetri rotti, in questa stagione in febbraio ero arrivato, non ci si riusciva a lavare al mattino perché i rubinetti avevano acqua ghiacciata. Io mi immagino proposta oggi, con i miei figli, con i miei nipoti, cosa succederebbe? Sì, ma era bello, perché era un periodo in cui l'Italia viveva dei momenti felici, in cui nelle case era entrato il benessere, gli elettrodomestici, le vacanze, le automobili. La cosa più triste che ricordo da recluta, tra di noi c'era un ragazzo, era un gay, l'hanno scoperto. Ah sì, c'è questa cosa tristissima, in effetti. Non le dico cosa è successo. Alla sera, a mezzanotte, è arrivato il tenente e il capitano con una bottiglia di birra e sono riusciti a penetrarlo di fronte a tutti che scrivevano. Lei sta raccontando, a parte un crimine orribile, farebbe meritare la galera, crimine, perché l'ha fatto allora. E mi ricordo ancora i nomi e i cognomi di quei tenenti, che saranno ancora in vita perché era maggiore di 10 anni di me, io ho 60 anni, per cui, ecco, e sollazzavano, si ridevano, questo povero ragazzo, umiliato, guardi, dei ricordi tremendi. Poi ero finito il vetovagliamento. Sì, normalmente quando avvenivano episodi del genere veniva messo poi tutto a tacere e la vittima veniva riformata con un articolo infamante, come se fosse una sorta di turba psichiatrica, e tutto veniva messo a posto. Però esisteva questa vessazione nei confronti di chi aveva comunque una condotta sessuale diversa dalle altre, o perlomeno anche senza appalesarlo, aveva degli atteggiamenti che non erano inneggianti alla virilità e al combattimento, che poi il combattimento era con i nonni, l'unico nemico era il tuo stesso compagno di Branda. Virginio, abbiamo già parlato. Renzo, allora. Renzo. Pronto, buongiorno. Sì. Buongiorno, io chiamo Donne Zero, vedo che la naia non vi attizza, una cosa lontana, meglio così. Renzo, andiamo. Beh, no, del tu se vuoi. No, sto dicendo le donne niente, nel senso, non telefono. Vediamo se riusciamo a trovare la mia. Allora, io chiamo da Trento, partì da Trento nel 66 per Cosenza. Mi fermai, ricordo, a Paola perché era un pomeriggio bellissimo e presi anche un po' di sole, feci il bagno, l'ultimo bagno della stagione, era ottobre. Arrivai in caserma il giorno dopo, subito dal barbiere, avevo i capelli lunghi, io in quel periodo cantavo, suonavo in un'orchestra, in un gruppo, chiamiamolo così, quindi avevo capelli lunghi, ero vestito con un paio di pantaloni di velluto rasato, un paio di scarpe due colori e una camicia attillatissima verde ricamata. Mi ricordo questo abbigliamento che era la fine del mondo, perché eri alla perfetta moda, con i pantaloni alla perfetta moda, scampanati in fondo color bordeaux, camicia gialla attillata, capelli lunghi, era una camicia verde, pantaloni neri di velluto rasato e larghi. Ricordo questo, si chiamavano la Celentano ed andava di moda proprio Celentano, perché era il 66. Pensa. Ricordo che in caserma sentivo la canzone Azzurro e io piangevo perché avevo lasciato una donna, una ragazzina a casa. Siamo passati 40 anni e ancora stiamo a parlare di Celentano. sì, è vero. Allora, i pantaloni alla Celentano, lo dico per... erano bicolori in realtà, erano color caffè latte all'interno e marroncino all'esterno. andavano tantissimo i pantaloni alla Celentano, erano attillatissimi nella zona del bacino, poi dal ginocchio in giù si allargavano in una sorta di gonnellino brasiliano. Giuseppe Sansone, tu te li ricordi? No, non me li ricordo, però volevo ricordare che il termine naia poi deriva storicamente dal dialetto veneto, attenaia, dall'attanagliamento che un po' opprimeva le persone, che è rimasto nell'eco già dall'Ottocento, da quando cominciarono le deportazioni dalle famiglie dei ragazzi, poi è rimasta un po' in voga questo tipo di concetto, insomma. Danilo, buongiorno. Buongiorno, sono in linea? Sì, certo. Buongiorno, volevo portare la mia testimonianza. Tralasciamo il car che l'ho fatto a Casale Monferrato, poi mi hanno trasferito a Remanzacco, un piccolo paese al confine con la Jugoslavia. Era alle caserme operative, chiamate così, perché erano al confine con il blocco comunista che bisognava fronteggiare. Sì, diciamo così. Allora, appena arrivati, dopo una tradotta di 18 ore di treno, saliamo sul camion, arrivati alla porta centrale, noto, mentre scendiamo giù, una grossa pozza di sangue. Mi viene detto il giorno dopo che un soldato, siccome era una caserma punitiva, ma per i graduati, no, per i soldati, i soldati eravamo in 3.000 circa, questo soldato qua era 120 giorni che non andava a casa, implorava al capitano di mandarlo a casa. Il capitano non lo voleva mandare a casa, lui montando di guardia si montava col colpo in canna, col caricatore in canna, era pieno periodo Brigate Rosse e tutto il resto. Niente, ha aspettato che uscisse. Comunque era il normale protocollo, nel senso la guardia si fa con il colpo in canna, è chiaro. Col colpo in canna, aspettato che uscisse il capitano e l'ha seccato lì, ha tirato giù tutto il caricatore. Naturalmente questo qua sarà ancora in galera ora, credo. E ne ho viste di cotte e di crude, ho visto gente che si faceva le bere per poter andare a casa, gente che si fingeva matto. Io comunque si spezzavano il dito ghiacciandoselo con il gas dell'accendino, poi si davano una botta e si spezzavano un dito. Beh, quello lì l'abbiamo fatto a un... No, io non l'ho mai fatto. No, io non l'abbiamo l'ho visto fare comunque in camerata. Sì, l'abbiamo fatto in un bar, un ragazzo che doveva assolutamente andare a casa. Ma doveva, perché... poi doveva, questo dovere era sempre una sorta di bisogno viscerale della mamma, della fidanzata, perché io penso che 3 mesi chiunque può resistere lontano da casa senza avere turbe psichiatriche profonde o danni. È che in realtà c'era questo impatto con l'Italia mammona che non è mai cambiata e con questa sorta di assurda entrata in una dimensione che non era quella corrente, apparteneva a un'epoca arcaica e non collimavano perfettamente le due dimensioni, quindi c'erano dei grossi problemi. 800 24 0024, ci fermiamo un istante dopo le informazioni del traffico. Dal regolamento di disciplina militare, articolo 7, l'obbedienza al superiore deve essere pronta, rispettosa, leale. Questa è la compagnia seconda bis. A qualcuno potrà far sorridere questo bis, ma io gli dimostrerò che ha torto. Farò in modo che fra una settimana ognuno di voi sia orgoglioso di appartenere alla compagnia seconda bis. Perché con me non sarete soltanto puliti, ordinati, inquadrati, efficienti. No, signore! Questo non basta. Voi vi distinguerete. Voi sarete assolutamente, splendidamente, incredibilmente massicci e incazzati! Compagnia Secondo Bis, lì! Io questa mattina, penso, avevo scritto come status di Facebook Nicoletti Sansonna massicci e incazzati, abbiamo fatto anche un video. Io mi sono sempre domandato cosa significava essere massicci e incazzati. Credo nulla, praticamente, cioè, massicci, compatti, ma questo è massimo. Poi venne Steve Jobs e ci disse che dovevamo essere tutta un'altra cosa, ma allora sì, dobbiamo essere massicci e affamati. Folli affamati e massicci incazzati. È il binomio che funziona, insomma. È meglio essere massicci e incazzati o folli affamati? Pensa che divario generazionale. Noi che nascemmo con l'input di essere massicci e incazzati, poi dovremmo diventare folli affamati. Secondo me c'era sempre una fregatura. Sempre sotto. Una micragna dietro, terribile in questa cosa. Va bene, entrambe le illusioni, insomma, c'è sempre una fregatura. Che film era questo? Questo era Soldati 365 all'alba di Marco Risi, per cui fu coniato l'infelice termine di neorealismo. Questa è una versione pop del film Marcia Trionfale di Bellocchio, dove c'è Massimo D'Apporto che rifà Franco Nero o l'Hartman di turno, appunto iperteso, collerico, che vomita insulti alle reclute appena arrivate. Il finto burino Claudio Amendola farà, insomma, il suo contraltare. E l'aspetto inquietante di questo film è che c'è l'esito alla finta rappresentazione del militare, c'è l'esito che ci si aspetta, ovvero la guerra. Cioè, poi si arriva all'alba, arriva il 365° giorno all'alba e devono partire. Era il primo sentore che i militari che avevano soltanto spazzato caserme cominciano a diventare operativi, l'Italia cominciava a muoversi. Non si chiamerà e tuttora non si chiama guerra, sono sempre missioni di pace, però sono operazioni in cui la gente muore realmente, l'abbiamo visto tristemente. Cristian, buongiorno. Buongiorno, infatti io volevo ricordare quel film che mi ha toccato profondamente, devo dire. Io ho fatto il militare a Montorio Veronese, che era una caserma a car, che poi si è chiamato bar, e ho fatto poi il caporale istruttore. E la cosa che mi ha colpito molto era che persone che comunque avevano circa 18-19 anni, c'erano anche dei sottotenenti che avevano fatto il percorso AUC, dovevano poi comandare oppure mandare a pulire i cessi a persone che avevano magari terminato il loro percorso di studi, erano già laureati, magari qualcuno aveva già iniziato anche a lavorare. E anch'io ero laureato, quasi laureato, se non ricordo bene. E il mio caporale istruttore non parlava nemmeno italiano. Io mi dico, ma perché questo qua, che fra l'altro ha 10 anni meno di me, deve darmi ordini? Poi ordini su cosa? Su come io devo allacciarmi le scarpe o pulirmi gli scarponi? Oppure andare a pulire naturalmente i cessi, perché poi c'era quel famoso servizio che noi tutti ricordiamo di andare a pulire i cessi. E devo dire che dal mio punto di vista io ero diplomato. Guardi, non era nemmeno il peggiore. Io trovo peggiore la corvée cucina, era molto peggio sgrassare i pentoloni che pulire i cessi. Poi alla fine il cesso non ci buttava una secchiata, era finita. Eh sì, vabbè, a parte che c'erano dei maleducati che molto probabilmente lasciavano quei bagni una... Sì, veniva intonacato organicamente nelle pareti. Un pollock, un pollock. Era un pollock, chiaro, sì. E devo dire, insomma, che questa è stata una cosa che mi ha toccato, perché effettivamente c'è chi non ha lasciato... Anche i cretti di Buri me lo ricordavano molto. Sì, prego, non ho preso. Lasciato, certo, c'è chi non ha lasciato, diciamo, a casa, diciamo, magari una niente, perché aveva Manzoni si ispirò appunto alla naia. Infatti Manzoni si ispirò. Poi scusi, noi stiamo facendo delle dissertazioni di un mix fra storia dell'arte contemporanea e vita di naia. Grazie comunque, Cristian. Sandro. Sì, ciao. Eccolo. Ciao a tutti, ciao. Bravissimi, complimenti per le vostre trasmissioni. Hai fatto la naia? Ma ho fatto la naia, certo che ho fatto la naia come caporal maggiore. Che scaglione era? Che anno? Ero nell'83esimo Osando Vinco Valtellina, 66esimo Valtellina. Ma che anno era? Che classe eri te? Era nell'83, appena ritorno dal Libano. Scaglione dal Libano. E sono omosessuale e ho fatto comunque la mia naia da omosessuale. E mi sono trovato benissimo. Sei stato fortunato, perché per molti non è stato così, lo sai. Ma molto fortunato, comunque per molti non è stato così, ma comunque io ho deciso di non farlo trasparire, di non farlo capire, anche se poi ci sono stati un paio di relazioni amorose portate avanti e l'amicizia c'è tuttora. Comunque all'epoca era... Angioni, sì. E il tenente colonnello che governava la compagnia Foggetti, quindi io ricordo tutti i nomi, ricordo anche i nomi dei tenenti, e ho passato la mia naia molto bene. Quindi voglio sfatare il mito dell'omosessuale deriso. Sandro, a te è andata bene perché mantenevi riservata la tua condizione. Ma in caserma non era riservato, perché tra di noi chi era c'era. Eri fortunato. Eravamo a conoscenza, insomma. Guarda, ricordo anch'io delle scene molto brutte con un ragazzo che poi fu allontanato, che poi non aveva nessun tipo né di voglia né desiderio di esprimersi, era semplicemente, palesemente, aveva degli atteggiamenti non proprio virili, capito? Probabilmente, certo, forse non era nemmeno omosessuale, era fatti suoi, non lo so. In sostanza, per l'omosessuale è questo, condivido con te questa cosa, questa osservazione. C'è chi lo fa più trasparire, chi è più femminile nei modi. Ma magari era stato educato in quella maniera, non aveva non lo so, comunque aveva una vita impossibile, dovettero allontanarlo. La sera lo portarono nei bagni, gli facevano le cose peggiori, lui subiva e stava zitto perché non era in grado nemmeno di... Poi c'era un sistema in cui non potevi nemmeno riferire, se riferivi era ancora peggio, non sapevi cosa ti sarebbe successo. Sì, quello sono d'accordo. Comunque voglio dire, all'epoca l'omosessualità in caserma era molto... c'era, quindi c'era. Ma non penso era ci sia palesata. Tuttora, ma ci sia tuttora e c'è sempre negli ambienti soprattutto monogenere, è molto diffuso, tu me lo puoi confermare, come nelle palestre, come negli spogliatoi, come nell'ambiente dei calciatori. È chiaro che negli ambienti militari tanti uomini messi assieme, molti ci vanno proprio perché preferiscono stare con gli uomini. La stessa cosa vale negli ambienti ad alta densità femminile, avviene nei monasteri, avviene negli ordini religiosi, è abbastanza nella norma questo, solo che nell'ambiente militare qualcuno rompeva la regola e usciva allo scoperto, molto spesso doveva subirlo in maniera molto cruenta. Sandro è andata meglio e questo sono contento per lui. Sono venuta per salvare l'onore dell'Italia e del tricolore. Ma il generalone porco, mangiami! Ma che fai? Le sembra il modo di trattare una signora? Che è venuta per tenere alto il morale della truppa. E non solo il morale. Bravo, primo baffo, l'hai fregato. Questo ti riforma. Vieni, vieni qui. Se sai quello che dici. Infilati una di queste. E io ti riformo. Scegli. Questo è un film in cui viene, adesso Sansone vi spiegherà la situazione, espresso quello che era il concetto. L'omosessuale poteva dichiarare la sua condizione e viene riformato come infermità mentale. Qual era il film? Questo è Porca Vacca di Pasquale Festa Campanile del 1982. Qui Pozzetto in realtà si traveste da donna, si finge omosessuale perché vuole scampare dall'arruolamento. Vuole passare attraverso una sorta di mortificazione. Sì, il film è surreale, è comico, grottesco, e quindi gli pone due missili, il graduato che ha di fronte, pone due missili di nature diverse e quindi lo costringe, se vuole essere veramente riformato, a passare attraverso queste forche caudine. Comunque nella realtà, per esempio, Carmelo Bene scampò al militare, racconta lui stesso nella sua autobiografia, facendo proprio così, fingendosi omosessuale. Va bene, abbiamo finito la nostra missione, abbiamo iniziato in maniera sorridente, l'abbiamo finita in maniera lievemente più mesta e forse la nostalgia nei confronti del giudizio militare meriterebbe migliori cause. Grazie a Valerio Rocchetti, grazie a Fabrizio Intonti, sempre presente, grazie a Sansonna, ci sentiamo domani.